lacrimò negli occhi suoi spunto quella fastosa e giovani invidia sembrò che più cercando io vo che più cercando io vo del suo bel cor sentì i miei sospir confondere per poco a sua confondere i miei poco suoi sospiri il cielo o si può morir di più non chiedo non chiedo chiedo si può morir si può morir adesso.